componenti dell'orchestra. Sono tanti, tutti belli ed imponenti, ma non sono proprio facili, accidenti. Solo uno mi ha colpito nel profondo, grande come il sole, anche lui rotondo. Sembra facile, mi basta una lezione, e poi tanta buona forza e precisione. Prendo la mira e in questa song, sì cari amici, io sono il gong. Vado ad Hong Kong, gioco a ping pong. Smoking elegante nell'orchestra, tutti quanti che si danno un grande affare, fiati anche tante corde da tirare. Invece me ne resto in disparte, proprio in questo sai consiste la mia arte. Stare ore fermo come un bel imbusto, sperando di essere sveglio al momento giusto. Prendo la mira e in questa song un'altra volta risuona il gong. Vado ad Hong Kong, gioco a ping pong. E nel mondo forse il primo della lista.